Amici di Web Radio Luzzi, benvenuti a questa terza stagione di Sulla linea d'ombra. Anche per quest'anno io vi sono grata soprattutto ai ragazzi del Clan 05 e alla nostra presidentessa Cristina di avermi dato occasione di poter prestare la mia voce per questo programma che per me è diventato uno dei miei hobby preferiti. È una cosa con cui svolgo con molto piacere, una cosa che mi piace fare, anche perché gli argomenti vedo che interessano sia me che voi. Quindi ringrazio per gli ascolti delle stagioni precedenti, soprattutto voi ascoltatori, e spero che la selezione che ho fatto degli argomenti per questa nuova stagione, che sarebbe la terza stagione di questo programma, che all'inizio era per me un attimino un programma ignoto, che parlava di cose che di cui io non mi ero mai occupata, insomma. E invece ho visto che piace molto a voi ascoltatori e questo mi aggrada molto, mi rende molto più felice nello svolgerlo, appunto. E io per questa nuova stagione avrei fatto una selezione di argomenti che mi piacciono tanto, che mi sembrano molto interessanti, che sembrano delle curiosità che comunque sia toccano la vita di ognuno di noi. E appunto questa nuova stagione vorrei aprirla con un argomento che so sicuramente interesserà a molti di voi. Questo argomento, cioè io penso che ognuno di noi nella propria vita sia stato affascinato da questo tema, in quanto penso che ognuno di noi, girando magari nelle grandi città, quali possono essere Napoli, Roma, anche Torino, città Bari in Italia, si sia trovato all'interno di una stazione ferroviaria o in una semplice piazza a contatto con persone che si spacciavano per coloro che sono in grado di leggere la mano, quindi di leggere il vostro presente, passato e futuro sulle linee della vostra mano. Ecco, molti di voi durante quest'estate si saranno portati in spiaggia dei romanzi rosa da leggere, che so io, dei noir, dei gialli. Oppure delle semplici riviste di gossip. Io invece ho fatto altrimenti, nel senso che mi sono portata in spiaggia un libro che praticamente è un manuale che ti insegna a leggere le mano. Naturalmente io non pretendo di leggere la mano a nessuno perché non sono assolutamente in grado di farlo, però mi sembrava che contenesse delle linee guida molto stuzzicanti, molto interessanti per poter in qualche modo dare degli indizi a voi per capire più o meno se effettivamente nel vostro palmo della mano sia scritta la vostra vita, il vostro presente, il vostro passato e il vostro futuro. Il più delle volte questo libro dava delle direttive su come leggere la parte fisiologica di noi stessi, non tanto su come prevenire su come sì, prevenire è una parola un po' medica, diciamo, su come leggere appunto il futuro. Io l'ho trovato molto interessante e ho raccolto alcune nozioni, alcuni elementi che secondo me sarebbe sfizioso per voi ascoltatori saperlo. Io farei una domanda innanzitutto prima di iniziare. Quanti di voi si sono mai fatti leggere la mano? E quanti di voi si sono ritrovati nella lettura che questo chiromante ha fatto? Mi piacerebbe molto saperlo, se magari ci scrivete o sull'indirizzo di posta elettronica o sul sito di Web Radio Luzzi, io leggerò con molto piacere i vostri commenti e cioè quelle che è praticamente il risultato della lettura che avete avuto. Il libro che mi sembra doveroso dire di chi è, visto che comunque ho tratto gran parte degli argomenti appunto da questo libro, è Come si legge la mano di Liska Raymond Gibson. È un'edizione PM, si chiama PM appunto, e niente, molto carino da leggere, molto sfizioso direi. Spero che i tratti che io ho deciso di trattare, questo trattare un po', di affrontare questa sera, vi siano di vostro gradimento appunto, e che magari facciate anche dei commenti su quanti di voi conoscono i chiromanti. Io ricordo che questo programma, come sempre, ha scopo prettamente compilativo, nel senso che non siamo un ente sperimentale e che quindi il nostro scopo è soltanto quello di passare un'oretta insieme trattando degli argomenti di curiosità. Quindi non siamo né chiromanti, né lettori di mano e null'altro. Io, dopo aver introdotto l'argomento, spero che restiate con noi.